in primo piano. Buongiorno, buongiorno a tutti da Lucia Annunziata. Inizio questa settimana con voi, spero di, come dire, di incontrare il vostro gradimento, come si dice. I giornali oggi hanno, come sempre un po' i giornali italiani ormai, quasi tutti la stessa notizia. Quello che domina le prime pagine e ancora sono le ricadute degli stupri di ieri in vari luoghi dell'Italia, in particolare quello a Roma, ma soprattutto la decisione del governo di reagire a questa ondata di stupri. Vedremo se è un'ondata o meno, insomma ci sono varie opinioni in merito, con un nuovo decreto, bisogna dire, perché di decreti se ne stanno facendo tanto, che immediatamente metta avanti misure più dure, soprattutto sia sulla carcerazione, la scarcerazione e anche le misure varie misure sui clandestini. La vicenda, seconda vicenda che più o meno è dominante nei giornali, è il voto in Sardegna e insieme le primarie a Firenze. Quindi sono vicende che più o meno riguardano il mondo del PD un po' più che la politica nazionale. In Sardegna infatti la sfida testa a testa tra Cappellacci e Soru, che si chiude oggi alle 15, ha assunto un significato non solo di politica nazionale ma anche di metro di misura all'interno dei rapporti di forza dentro il PD. Le primarie di Firenze anche sono state una verifica di che cosa può produrre il sistema delle primarie applicato un po' a tutte le situazioni. Vedremo, a Firenze è uscito un risultato abbastanza, diciamo, imprevedibile, col 40%, il più giovane dei candidati, 29 anni, Renzi si chiama. Devo dire che l'ho incontrato, mi sembra anche uno molto simpatico, sicuramente a 29 anni è sbruffone, è simpatico e comunque ha vinto. Ci sono poi ricadute sulle questioni economiche già fatte, che hanno dominato il fine settimana, in particolare le molte tante valutazioni sul G7 che è avvenuto a Roma, con G7 con il suo allarme contro il protezionismo e anche il seguito del dibattito innescato dallo sciopero della CGIL in solitario e dalle richieste della CGIL, dalla piattaforma, una delle richieste economiche della CGIL. Infine, in vario modo ci sono delle cose molto interessanti in giro, c'è per l'appunto, come sentivo prima, sul Corriere c'è un ottimo pezzo di Aldo Grasso, il critico TV più autorevole d'Italia, che attacca la RAI per il cosiddetto lodo Benigni. C'è poi dominano le case, ci sono delle case, le case, come fare affari sulle case. Il Sole 24 Ore invece parla dell'evasione fiscale sulle case. Poi ci sono altre, la cosa importante internazionale invece è soprattutto il rifiuto della Livni di fare un governo insieme a Netanyahu. Stamattina, intanto è l'inizio del primo viaggio, ma ci sono già segnali sui giornali, l'inizio del primo viaggio di Hillary Clinton, nuovo segretario di Stato, in Asia. Bene, cominciamo allora dunque per il decreto antistupro. Diciamo, tra i molti giornali scelgo di segnalarvi il lavoro fatto dal Corriere della Sera e dal Giornale. Il Corriere della Sera mette in evidenza, semplifica probabilmente meglio degli altri, quelli che sono oggi i contenuti del nuovo decreto che il governo si sta apprestando ad approvare tra 4 giorni. Ora, il decreto, come sapete, è una legislazione veloce, più veloce. In questo caso si velocizzano parte dei contenuti della legge che è già in discussione, quello che sarebbe sul decreto, sarebbe la legge sulla sicurezza. Tra i provvedimenti dunque che ci sono e vengono separati appunto per dare il senso dalla legge in discussione e accelerati, e ci sono soprattutto un provvedimento contiene vieta la concessione degli arresti domiciliari a chi è accusata di violenza sessuale, escludendo peraltro premi e benefici, questo per quanto riguarda la carcerazione. Sulla questione dei clandestini, Maroni ha ripreso, vorrebbe reinserire nel decreto la misura di portare a 18 mesi la permanenza dei clandestini nei centri di identificazione ed espulsione al posto degli attuali 60 giorni. Le ragioni per cui il ministro vuole fare questo è che il tempo di 60 giorni è insufficiente per completare l'iter di identificazione. La reintroduzione di questa misura, che era stata bocciata nella discussione precedente, è quella che sta portando sulla sicurezza, è quello che sta portando a vari dibattiti. C'è infine un argomento che a mio parere sarà l'argomento dominante dei prossimi giorni, se non delle prossime settimane, la regolamentazione delle ronde. La Lega dentro le norme vorrebbe la definizione secondo la quale gli enti locali saranno legittimati, queste tra virgolette, ad avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini al fine di segnalare agli organi di polizia locale eventi che possano arrecare danno alla sicurezza. Questa definizione, come potete immaginare, di fatto autorizza la questione delle ronde. E le ronde, come vi dicevo, secondo me sono la vera discussione che va sotto il metro del discorso sulle reazioni della sicurezza. Ieri infatti a Roma ci sono state non una ma ben due spedizioni anti-Rom. Ora vi ricordo che già in Veneto si sta tentando di organizzare un coordinamento delle varie attività dei cittadini, quindi chiamate più o meno ronde in varie zone del nord-est. La novità è che con ieri, a partire dal parco della Caffarella, la decisione di fare delle spedizioni anti-Rom è parte di una reazione del quartiere, è parte di una fortissima riorganizzazione locale che è partita immediatamente e che ha proposto immediatamente di far fare, di organizzare delle ronde per tentare di, provvedere alla sicurezza di questo grande parco e soprattutto del quartiere. Vi renderete conto che se il concetto di ronda passasse da un'iniziativa soltanto del nord-est o anche in altri punti leghisti, lo dico non per attaccare la Lega, ma la Lega ha sempre avuto questa idea, e passasse di fatto a Roma, avremmo uno sdoganamento, secondo me, della questione della partecipazione dei cittadini, della cosiddetta giustizia fatta da sé, ma è giustizia fatta in proprio. Su questo io scelgo il giornale perché il giornale probabilmente è appunto il più vicino al punto di vista del governo. Sul giornale ci sono due interviste a proposito delle ronde. Una è quella del sindaco Gianni Alemanno di Roma, è inutile che ve lo presenti il sindaco Gianni Alemanno, che dice chiaramente niente ronde ma pugno di ferro. C'è comunque il tentativo, dice il giornale, il desiderio di dire sì a comitati di cittadini volontari non armati, si specifica, in aiuto alle forze dell'ordine. Inoltre Calderoli ha riparlato ieri della castrazione chimica. Il governo, dice Ronchi, attuerà immediatamente un giro di vite sulle violenze sessuali. E poi c'è una intervista che credo sia importante della ministra Carfagna. La ministra Carfagna in realtà ieri ha dato moltissime interviste. In questa del giornale, che è praticamente la più lunga, la Carfagna dice: un bollettino di guerra, siamo dinanzi a un fenomeno di continuamento, sta parlando dello stupro, al dilagare di un'emergenza c'è la ferma volontà da parte del governo di intervenire subito. Sulla questione però delle ronde è molto, diciamo, attenta, mentre invece su questa stessa questione sulla stampa, in un'intervista data alla stampa, si dichiara a favore. Dunque, sì, vedo che c'è, tra 2 minuti ci sarà il traffico, quindi state attenti, la questione vera secondo me sarà quella di come organizzare i cittadini. Il timore in queste ore è che la questione stupro dia il via a un'altra fase sociale. Quando ritorneremo dopo il traffico, parleremo per l'appunto del PD. Come vi ho detto ieri anticipatamente, il PD vota oggi in Sardegna e il PD ha votato ieri alle primarie. Prima però proprio di chiudere, vi do una cosa su cui forse pensare e ragionare mentre abbiamo la pausa per il traffico. A pagina 6, è un primo piano sempre del Corriere. Mannheimer, l'osservatorio di Mannheimer, pubblica oggi un interessante dato. Cosa è successo tra cittadini e varie istituzioni dopo la vicenda di Eluana? È la domanda che pone Mannheimer. La risposta è che è cresciuta la sfiducia. È cresciuta la sfiducia in quasi tutte le istituzioni, incluso la Chiesa Cattolica, la magistratura, che diciamo la sfiducia era è in questo momento al 64,8% per la Chiesa invece del 61,9% precedente. E la magistratura 54% invece del 45%. In generale, dunque, tutte le istituzioni, incluso Chiesa, Magistratura, Parlamento, Rai TV, sia Rai TV che Mediaset, eccetera, hanno segnato da parte di vari settori dei cittadini un calo di fiducia. Passiamo alla seconda pagina politica importante, come vi ho detto, che è la battaglia interna al PD, segnata dalle elezioni oggi in Sardegna, importante appunto se vince Soru o se non vince, e dalle primarie di Firenze. Il Corriere della Sera, oggi cito molto il Corriere, scusate, ma ogni giorno un giornale fa un po' meglio, un po' peggio, è molto chiaro, a pagina 8 e 9 riassume tutte le novità nel campo del PD. La più probabilmente gustosa, dipende da come volete poi interpretare questo termine gustoso, è che Mastella è passato per le europee nel campo berlusconiano. Prodi fa uno sfogo e dice: questa non è politica, sfogo diciamo registrato dal Corriere della Sera, come vi dicevo. Dell'importanza dei test in Sardegna, test elettorali in Sardegna abbiamo detto, così anche delle elezioni di Renzi, del giovane Renzi, 29 anni, a Firenze. Sarà dunque il prossimo candidato sindaco. Ma l'importante di questa giornata in termini di notizia, di intervista che fa un po' di notizia, è che il senatore Tonini, uomo molto importante, il braccio destro di Veltroni, sostiene, il braccio destro, insomma un uomo molto influente, dice una cosa abbastanza interessante: basta logorarsi, anticipiamo il congresso. Ora, per chi segue le note politiche, sa che la questione del congresso, quando e come farlo, in realtà sottintende la questione della leadership di Veltroni. Chiamare un congresso significa di fatto mettere in discussione Veltroni o per riconfermarlo o per mandarlo via. E il congresso è sempre stato voluto dai dissidenti anti-Veltroni, di solito si chiamano sempre in campo i dalemiani. In questo caso Tonini è un grande, diciamo, sostenitore, un grande ideologo del PD, così com'è, post correnti, post diciamo ideologie. E però questa volta dice: a questo punto, invece di lograrsi, visto che si è presentato a questo punto anche Bersani, dopo la campagna elettorale potremmo anticipare il convegno, potremmo anticipare il congresso. Dice che ne parlerà al coordinamento di martedì. Il coordinamento di martedì è il luogo in cui il PD farà il bilancio di tutte queste cose, e addirittura già parla di sostituire il congresso alla conferenza programmatica già fissata dal 16 al 18 aprile. C'è un piccolo trappolone in questa storia, perché naturalmente anticipare il congresso ad aprile obbligherebbe il partito intanto a fare in fretta, perché si è sotto elezioni, quindi ci sarebbero un congresso e delle primarie molto accelerate, ma soprattutto eviterebbe al PD attuale, sotto la leadership di Veltroni, di doversi presentare al congresso dopo il risultato delle europee. La Zipni-Livni, piacere o non piacere, sicuramente è una donna, come si dice, forte. Ieri ha fatto sapere che definitivamente respingerà tutti i suggerimenti che gli erano arrivati, in particolare dagli Stati Uniti e da molti paesi europei. Questo lo leggerete un po' su tutti i giornali, di fare un governo insieme a Benjamin Netanyahu. Preferisce, lei dice, andare all'opposizione o fare un governo per proprio sistema. Voi sapete che con un proprio schieramento. Voi sapete che è interesse in questo momento della politica internazionale di tenere fuori Lieberman, che è il capo della destra estrema, dall'entrare in una coalizione di governo. Per cui si pensa che potrebbero fare insieme al governo Zipni e Netanyahu, magari facendo una staffetta. Il rifiuto di Zipni, che peraltro è stato fatto con il solito pizzino, come vedete non sono solo gli italiani a scriversi pizzini durante le trasmissioni. Lei ha scritto un bigliettino a Olmert dicendo: guarda, non parlare di questa opzione di fare un governo insieme a Netanyahu, perché io mai, la cosa è finita su tutte le televisioni. Il senso di tutto questo? Beh, il senso di tutto questo è che Livni gioca pesante, forte del suo appeal personale, e secondo me fa anche bene, nel senso che un governo Livni-Netanyahu sarebbe un altro di quei governi, purtroppo la politica israeliana è un po' come quella italiana, minato fin dall'inizio da tensioni interne, giochi politici. È meglio andare probabilmente a un chiarimento. Ultima notizia, diciamo di notizia in termini importanti, della notizia di Serie A. Vi avevo detto che su Repubblica ci sono due cose da leggere molto importanti che, ripetono, hanno a che fare con la ricaduta delle questioni economiche dibattute la scorsa settimana. Vi consiglio la lettura di un pezzo che comincia in prima pagina di Federico Rampini, che commenta il G7, tenutosi a Roma, quello contro il nazionalismo. Finalmente una persona che parla chiaro. Io stimo personalmente Rampini per la sua confidenza, per la sua competenza e anche per la sua nettezza. Sul G7 dice quello che molti abbiamo pensato e che non abbiamo potuto dire, e dice: quello di sabato a Roma ha varcato una nuova soglia, è stata una beffa, una pericolosa impostura. Sappiamo infatti che intanto tanto riunioni del genere non hanno senso. Inoltre l'idea di impegnarsi in maniera così vaga per quanto riguarda l'ondata, il rifiuto dell'ondata di nazionalismo sembra per l'appunto più un compitino di scuola che un effettivo contributo alla chiarezza. Va bene, e mi dicono che abbiamo già finito per questa mattina, la mezz'ora è volata, ci vediamo domani mattina.